Del sabato sera in studio c'è Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale dei DJ del ristorante Convento. Buon ascolto. È sabato sera, per essere precisi sabato 1 settembre del 2018, e siete sempre in collegamento col ristorante Convento di Lonato, per la precisione con la web radio Ristoradio. È all'1:46 del mattino e abbiamo ospite un'altra sposa, un'altra protagonista di questa nostra lunga serata ormai nottata, a cui diamo il benvenuto. Benvenuta. Ciao, come ti chiami? Giulia, benvenuta Giulia, da dove vieni? Bassano Bresciano, e per tutti gli amanti della geografia, non so quanti ce ne siano o ce ne saranno all'ascolto, attenti alle dovute differenze, lo dicevamo fuori onda, che non c'entra nulla con gli altri Bassani che conoscete, magari il più famoso è Bassano del Grappa. Localizzamelo un attimo, Bassano Bresciano, ok, la provincia di Brescia, ma zona? Zona Manerbio, Bassa Bresciana comunque. Bassa Bresciana, Manerbio, no, non è ancora lago, è confinante lago, no? Tra Cremona e Brescia. Ah, tra Cremona e Brescia, ok, quindi quella bellissima autostrada che ha salvato la vita a tante persone, ma non siamo qui a fare propaganda autostrade per l'Italia, che tra l'altro in questo periodo direi che non ne ha particolarmente bisogno, anzi dobbiamo festeggiare qualcosa, ma direi che la voce della nostra Giulia è il modo migliore per capire cosa stiamo festeggiando qui. Sì, mi sposo il 23 settembre, quindi sto festeggiando il mio addio al nubilato. Perfetto, chi è il fortunato? Gianmarco, e anche lui della zona o? No, di Colle Beato. Aiutami? Sempre Brescia. Ah, sempre bresciano, ok. E come vi siete conosciuti, se posso chiedere, essere curioso? Tramite amici. È il solito caro buon vecchio modo. Noi facciamo anche una sorta di, come dire, sondaggio interno sociologico per capire anche come vanno le cose, e ti dico la verità che in un'ipotetica classifica la risposta come vi siete conosciuti tramite amici vince ancora irrimediabilmente, quindi come diciamo sempre, nonostante i social network, il modo migliore ancora per conoscersi è tramite conoscenze comuni e, grazie a Dio, guardandosi negli occhi, parlandosi faccia a faccia. E quindi dove vi siete conosciuti? Una festa? In che occasione? No, in realtà una mia amica gli ha parlato di me. Sì. E quindi insomma gli sono un po' incuriosito, perché comunque era single e è nata lì, poi in è nato. Sì, sì, ok. Sì. Quindi diciamo così che ha preso questa iniziativa, ma è qui la tua amica? No, sì, in realtà sì, però sto parlando. Sì, nel senso qui con te comunque. E ha preso, e non le hai mai chiesto come mai le è venuta sta idea di farti un po' pubblicità? No, non lo so. No, perché alla fine ci ha visto giusto, nel senso, se sa anche cosa esce sul lotto, sulla ruota di domani, io insomma glielo chiedo, perché magari può essere utile un contatto così. Non gliel'hai mai chiesto? Non sei mai stata curiosa di sapere perché vi ha visti affini? È stato lui in realtà. Sì, però, insomma, cioè, nel senso, se io presento una persona è perché già vedo un po' oltre, ecco, diciamo così. Beh, insomma, non ti ha mai incuriosito approfondire la cosa. Vi conoscete da tanto? 4 anni. 4 anni, che è già un buon numero di tempo, un buon periodo di tempo per capirsi e per capire se può essere qualcosa di importante. E dicevamo, quindi 23 settembre vi sposate e hai... Qui con me c'è la mia testimone, Marta. Ma davvero? Sì, ciao. Ma che bello, la testimone Marta. Come stai? Molto bene, grazie. Oh, bene, bene, mi fa piacere. E tu invece la conosci da tanto, la nostra Giulia? Sì, più di 10 anni oramai. Più di 10 anni? Anche tu, perché c'è qualcuno te l'ha presentata anche a te? No, facevamo liceo insieme. Ah, ecco, no, non c'è stata pubblicità per un'altra interposta persona che ha fatto... sai, tutte amiche che fanno pubblicità, la Giulia, è un buon partito, bene, bene. E... facciamo il gioco che ogni tanto facciamo al contrario, perché di solito si dicono belle cose delle spose, come è giusto che sia in queste serate, però vorrei fare un gioco al contrario, visto che abbiamo la testimone. Perché hai scelto proprio lei? Cioè, in tutto il mondo e globo terrestre, come mai? Cosa vi unisce così tanto? Perché la ritengo una persona... Una persona intanto, e non un oggetto, che è già qualcosa. Ha dei grandi valori. Siamo sempre rispettati, siamo sempre molto bene, al giorno d'oggi comunque penso che sia molto raro. Giusto, giusto. E tu sei stata, beh, immagino sì, orgogliosa di ricevere questa, sì, questa richiesta, onorata e orgogliosa, diciamo di sì. Anche perché c'è anche un minimo di paura, o lo vuoi ammettere? Cioè, sì. Non paura, è responsabilità. È senso di responsabilità, nonostante, diciamo, non è che il testimone abbia dei compiti veri e propri o comunque degli obblighi veri e propri, però una sorta di responsabilità, responsabilità morale. Poi c'è scegliere il vestito, insomma, ci si sente un po' più coinvolti degli altri. Meglio, meglio, meglio così. E a proposito della tua vita, un'altra cosa interessante che fai è il tuo rapporto, immagino, con i bambini. Esatto. E col tuo mondo del lavoro. Sono educatrice in un asilo nido da 4 anni. E di cosa ti occupi? Cioè, ok, l'educatrice, però nel senso un rapporto uno a uno con i bambini? Uno io a 10 bambini. Ah, ok, ok, quindi ti viene assegnato un gruppetto comunque. Una sezione di 10 bambini, uh-huh, che possono andare dai 0 ai 3 anni. E ti occupi di tutto e niente, cioè nel senso di quello che serve. Il cambio dei pannolini, all'attività, al pranzo. Sì, sì, non hai mansioni specifiche, è tutto un po' tutto quello che serve, no? Esatto. Ok, e sono studi che hai fatto, immagino di sì, era una cosa che già volevi fare? Sì, da anni che... E cosa ti affascina di questo mondo, cosa ti affascina dai bambini magari in generale? I bambini, la loro... sincerità, spontaneità. Vabbè, insomma, è già più che abbastanza. Bene, bene, immagino, inutile chiedertelo, che tu sia contenta quindi del tuo lavoro, di quello che fai. Bene, bene, bene. Ma i lavori quindi, ma fanno anche il pomeriggio o solo la mattina? Sì, il nido è aperto dalle 7:30 alle 18. È più delle poste praticamente. Vabbè, voi avete ritorni, immagino? Sì, o coprite tutto? Sì, no, ah, ok. Da 5-6 ore? Io faccio 7 ore. 7, 4, ah, ok. 7, 7, no, stavo facendo i calcoli. 7, 7, 14. Cioè, pranzo compreso, quindi. Sì. Pranzato insieme a loro. Sì, sì. In realtà noi abbiamo la nostra mezz'ora di pausa e mangiamo da sole, però a volte capita di mangiare. Sì, però, cioè, pranzate insieme a loro, nel senso che mentre pranzano siete comunque lì. Sì. Ok, capito. Sì, no, anche per capire l'impegno, perché vabbè, dal punto di vista mentale credo che sia anche pesante in senso buono, cioè serve sempre molta presenza, molta attenzione. Fisica, sia... esatto, molta attenzione, quindi molta, molta concentrazione. Bene, bene, e la testimone cosa fai nella vita tu? Faccio la A parte testimoniare la maestra. E quindi vedi che avete anche questo mondo. E maestra dove? A Manerbio, in una scuola primaria. Quindi un po' più su. Come? Sì, dalla prima alla quinta. Insegni cosa? Matematica e inglese. Che conciliabili una con l'altra, nel senso vicine e vicine. Beh, magari sono quelle scuole in cui una maestra ha più compiti e più ruoli. Ok, e vedi che c'è anche, ha un po' l'atteggiamento da cattedra, no? Anche come si pone nei confronti del nostro tavolino, come si appoggia, come tocca tu. Sei una maestra severa? No, ti si vede, sì? Buona. Ti si vede che sei... L'apparenza severa. No, ma si vede che sei un cuore d'oro, come si dice. Sì, confermi? Confermi. Bene ragazze, dai, volete salutare qualcuno? Volete dire qualcosa in chiusura? Ciao a Gianmarco sicuramente, che è il mio futuro marito. È giusto ricordarlo. E alla mia famiglia, a tutti quanti, insomma, quelli che mi conoscono. Va bene, allora io vi ringrazio, ringraziamo sia Giulia sia la nostra, o meglio la sua testimone, stavo dicendo nostra, mi stavo già allargando. E ovviamente tanti auguri ancora, in bocca al lupo per il tuo matrimonio. E grazie ancora per questa bella serata passata con noi, speriamo vi siate divertite. Grazie a voi. Alla prossima, ciao! State ascoltando Ristoradio Convento.